Ci voleva proprio la goffaggine del governo attuale per offrire agli avversari di tutti gli argomenti di cui già a torto o a ragione si fanno forte, quello aggiuntivo di una pretesa tendenza all'oscurantismo in tema di ricerca scientifica. Ci voleva anche un ministro forse corazzato sul piano ideologico, ma un po' scarsino quanto a preparazione specifica, qual è l'attuale titolare dell'agricoltura, ministero che peraltro non dovrebbe esistere perché l'abbiamo regolarmente abolito per via di referendum, e ci voleva un ministro siffatto per indirizzare contro se stesso, contro il proprio partito e contro tutta la coalizione una protesta che era nata in origine in reazione alle pretese censorie della Chiesa Cattolica. Evidentemente tutti i fondamentalismi si danno la mano, per cui non c'è da stupirsi se l'antiscientismo della Chiesa sia andato sommando quasi spontaneamente quello dei Verdi. Lo stato di natura alla cui conservazione si è votata larga parte di quel movimento è tutto sommato un'ipostasi molto simile a quelle su cui si fondano le religioni ed espone i suoi zelatori al rischio di essere altrettanto intolleranti di quanto rischiano normalmente di essere cultori di quelle. Ciò premesso, è difficile sfuggire all'impressione che il dibattito di questi ultimi giorni abbia avuto un carattere un po' surreale. I ricercatori, i premi Nobel in testa, si sono mobilitati in nome della libertà di ricerca. Volevano in pratica che il governo non ponesse limiti alla sperimentazione sugli organismi geneticamente modificati e aumentasse, già che c'era, i finanziamenti stanziati allo scopo, perché solo la scienza può giudicare sulle proprie procedure e sulle proprie finalità. E chi è estraneo alla scienza non dispone ovviamente di competenze e criteri per metterci becco. I politici, per bocca del surrodato ministro, rispondevano che la libertà di ricerca è sacra, se va a san dire, ma che il governo ha bene il diritto di vigilare sul bene comune e non è affatto obbligato a finanziare quelle pratiche i cui esiti potrebbero portare guai per tutti. E già, ribattevano i ricercatori, ma questo significherebbe affidare dei non scienziati il controllo sull'attività degli scienziati e permettergli di discriminare a priori i loro obiettivi, che è molto antiscientifico. Ma figuriamoci, rispondevano dal Ministero, non si può mica pretendere che l'autorità politica abdichi a una funzione di tutela che gli è stata democraticamente affidata. Sì, certo, ammettevano gli altri, ma la scienza... Insomma, la questione finiva per mangiarsi la coda e infatti, se ho ben capito, si è risolta con un compromesso formale. D'altronde le prospettive del governo non sono tali da spingere chiunque ad accalorarsi più che tanto, perché di quanto c'è da discutere si discuterà con più profitto con il prossimo. Però, compromesso finale a parte, il guaio è che entrambe le linee d'argomentazioni, ciascuna presa in sé, sembrerebbero ineccepibili. La scienza non può accettare di essere regolata dall'esterno e il governo non può permettere che un settore qualsiasi si affidi soltanto all'autoregolamentazione. La contraddizione è insolubile, o lo sarebbe almeno, se entrambe le parti si proponessero effettivamente quello che affermano di proporsi. E se la scienza non avesse altro fine che la ricerca disinteressata della verità e se la politica non mirasse ad altro che alla disinteressata difesa del bene comune. Ma allora probabilmente le due logiche coinciderebbero e il dibattito non avrebbe ragione di esistere. Perché il problema, naturalmente, è che non esistono né una scienza né una politica, ci sono degli scienziati e dei politici e che hanno le loro esigenze e le loro finalità ed è fin troppo evidente che la loro attività non può essere ridotta alla categoria del disinteresse. Tanto gli uni che gli altri, in fondo, devono mangiare e per mangiare devono tenere il debito conto delle richieste di chi detenendo elargisce. La ricerca vuole essere indipendente e quindi chiede finanziamenti al governo, ma se il governo quattrini non ne ha o non ne vuol dare, perché viviamo in fondo nell'epoca della delega di tutto al privato, i ricercatori accetteranno con maggiore o meno entusiasmo di farsi finanziare da chi quattrini ce li ha, come fossero le multinazionali, e alzi la mano chi crede che una ricerca finanziata dalle multinazionali possa essere disinteressata. D'altronde, a questo punto, per esercitare un controllo efficace, il governo con le multinazionali non dovrebbe avere rapporti e una volta ancora alzi la mano chi ci crede. E, insomma, è nella comune soggezione alla logica del quattrino che le due parti possono trovare il terreno comune su cui imbastire i loro eterni compromessi. Se n'è d'accordo, se ne era accorto oltre mezzo secolo fa il vecchio Brecht, che non per nulla concludeva il suo Galileo, un'opera che affrontava delle tematiche di questo genere, e con una dichiarazione di pessimismo totale sull'autonomia della scienza. Galileo Galilei in quel dramma falliva non tanto perché l'Inquisizione gli vietava di rendere noti i risultati delle sue ricerche, perché questi divieti storicamente non possono che essere provvisori e transeunti, ma perché non era stato capace lui di chiarire a se stesso e ai suoi discepoli i rapporti tra il fine di quelle ricerche e la condizione generale dell'umanità. E il suo problema non era tanto la mancanza di libertà, come la si intende di solito, quanto la mancanza di coscienza politica, nel senso di impegno morale, che è tutta un'altra cosa. Certo, e alle spalle di quella condanna stavano delle problematiche un pochino più drammatiche di quelle che oggi sostanziano lo scontro tra personaggi quali il ministro Pecoraro Scanio e la premio Nobel Levi Montalcini. E Brecht e il suo pubblico avevano ben presente Raffaele Oppenheimer, il problema su cui si arrovellavano era quello dello spettro dell'olocausto nucleare. Ma è inevitabile che quanto nella storia si è manifestato una volta come tragedia si ripresenti prima o poi come farsa.